Attenzione, avventurieri! Alcuni scogli sbarrano la rotta. Dovrete manovrare con precisione per evitarli. Seguite attentamente le indicazioni. Il primo scoglio è in arrivo. Ladro, esegui 4 remate consecutive per iniziare la virata.